2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 27 ottobre 2012. Benvenuti o bentornati a 2024, io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci in varie modalità, potete utilizzare i social network Twitter e Facebook, solo questi due social network, oppure potete utilizzare l'SMS, il numero verde, l'email e magari nel corso della trasmissione vi ricorderò le nostre coordinate. In questa puntata parleremo ampiamente di Windows 8, come sapete è uscito in tutto il mondo il nuovo sistema operativo di Microsoft, ma non c'è solo Windows 8, c'è qualcos'altro e allora faremo un po' di chiarezza nel corso di questa puntata. Oggi iniziamo con le nostre Digital News. Digital News. Partiamo da Apple che ha presentato questa settimana alcune novità. L'iPad mini, l'atteso iPad mini, la quarta generazione di iPad, un po' sorpresa potremmo dire, e anche i nuovi computer della linea Mac. iPad mini diventa il principale concorrente dei tablet a 7 pollici come il Nexus e il Fire, ma Apple ha scelto un display un po' più ampio, 7,9 pollici ed un prezzo più elevato. Beh, Apple se lo può permettere. In Italia si parte da 329 euro dal 2 novembre. Digital News. È sicuramente di iPad mini e di tutta la serie di altri prodotti che stanno uscendo in queste settimane. Parleremo presto in modo più approfondito 2024. Adesso parliamo del mercato degli smartphone. Secondo IDC, il mercato smartphone è cresciuto in un anno del 45,3% e nel terzo trimestre dell'anno sono stati venduti nel mondo quasi 180 milioni di terminali. Samsung consolida la sua posizione di leadership con il 31,3% del mercato, seguita da Apple al 15%. Dietro di loro ci sono RIM, Research in Motion, quindi quelli del BlackBerry, ZTE, i cinesi di ZTE e HTC, con quote che sono per ciascuno vicine al 4%. Nokia esce per la prima volta dai primi 5 della classifica dei produttori di smartphone, rimane invece il secondo produttore se consideriamo tutto il mercato dei telefonini dietro a Samsung. Digital News. Gli hacker di Anonymous hanno attaccato i sistemi informatici della polizia italiana, ma sull'importanza del materiale copiato non c'è chiarezza. La polizia sostiene che Anonymous sia entrato solamente in alcune email personali di poliziotti e che non abbia violato alcun server e nessuna informazione sensibile. Gli hacker sostengono invece di avere sottratto 3.500 documenti con materiale sensibile. Digital News. Una altra novità nel settore delle mappe, Navtec, la società di Nokia che si occupa di cartografia, ha lanciato una piattaforma che si chiama Navtec True per creare una riproduzione fotografica in 3D del mondo reale, per fare concorrenza quindi a Street View di Google Maps. Navtec sostiene di essere ai vertici in termini di qualità delle fotografie e di precisione dei dati. Alcuni esempi sono già disponibili con l'applicazione City Lens sugli smartphone di Nokia Lumia. A proposito di notizie della settimana, questa settimana a metà sono stati presentati, o meglio aggiornati potremmo dire, i dati che ogni anno vengono pubblicati dall'osservatorio Business to Consumer di Netcom e Politecnico di Milano. Dati positivi, il mercato è ancora in crescita. Saluto Roberto Liscia che è il presidente del Consorzio per il Commercio Elettronico in Italia. Benvenuto a 2024. Buongiorno a voi ed è un piacere essere nuovamente qui. Dicevo che il commercio elettronico cresce, questo sicuramente è un dato positivo. Allora, Liscia, partiamo proprio da qua. Alcuni numeri per descrivere l'andamento di questo mercato. Il mercato è in crescita da molti anni, con una crescita media del 20%. Questo sta avvenendo in tutti i paesi europei e anche in Italia. La crescita quest'anno è stata di circa il 19%, però l'elemento chiave che è avvenuto quest'anno è il sorpasso dei prodotti, nel senso che fino all'anno scorso si vendevano più servizi, per intenderci turismo e assicurazioni, mentre i prodotti, per intenderci prodotti di abbigliamento e gli altri prodotti che normalmente gli italiani utilizzano, erano rimasti un po' in coda. Quest'anno per la prima volta addirittura la vendita di prodotti online ha avuto una crescita del doppio rispetto alla crescita dei servizi, il 29% contro il 14%. Questo è un segnale positivo positivo, perché vuol dire che da un lato le imprese italiane cominciano a guardare a questo canale come un canale importante che si in qualche misura associa anche e si accompagna agli altri canali fisici, ma dall'altro permette ai produttori del Made in Italy, per intenderci, di guardare con entusiasmo e con una prospettiva positiva ai mercati internazionali, perché soltanto entrando con il digitale, col mercato del commercio elettronico, si può pensare di aggredire i mercati a livello internazionale. Anche se ancora oggi, se parliamo di commercio elettronico, siamo importatori più che esportatori. Esattamente, questo è un grosso problema che rimane da quando abbiamo cominciato ad osservare questo rapporto tra saldo ed import. Abbiamo un'importazione di merci superiore rispetto all'esportazione, e questa differenza tra quanto si importa e quanto si esporta è addirittura cresciuta nell'ultimo anno, anche se c'è stato quest'anno la crescita di un punto percentuale dell'export dei nostri prodotti, e anche se segnale positivo, la crescita dell'export è avvenuta soprattutto non sui servizi come il turismo, che chiaramente fa la parte fondamentale delle nostre capacità di vendita all'estero, ma anche sui prodotti, in particolare sull'abbigliamento. Quindi ancora una volta vediamo un segnale positivo, la capacità delle nostre imprese oggi di avere capito che il mercato del, diciamo, del digitale, del commercio elettronico, diventa una prospettiva positiva per uscire dalla crisi nella quale ormai siamo a livello planetario anche in Italia, diciamo, della vendita al consumo attraverso i canali tradizionali. Qual è il motivo che secondo voi sta alla base di questa crescita della vendita di prodotti? C'è una domanda che è migliorata o il consumatore secondo voi è cambiato? Bah, ci sono i due fenomeni. Da un lato il comportamento degli italiani segue quello che è avvenuto negli altri paesi europei. In Germania, in Francia, in Inghilterra l'abbigliamento è normalmente acquistato da parte dei consumatori come un fatto normale. In Italia questo è stato più riluttante, ma la crescita degli ultimi anni ha fatto aumentare molto le vendite di abbigliamento, che sono cresciute del 30% all'anno, soprattutto con questi nuovi, diciamo, modelli di business che vengono volgarmente chiamati flash sales, cioè le vendite per un tempo limitato, fortemente scontate, che hanno abituato l'italiano, ma anche gli altri paesi europei, a cercare dei prodotti con un forte sconto nel campo dell'abbigliamento. Questa evoluzione nel settore dell'abbigliamento però ha creato poi un'abitudine a comprare non soltanto prodotti scontati, ma anche a prodotti full price, tant'è che si sono sviluppati delle piattaforme di vendite come Asus, come Zalando, che vendono scarpe a livello internazionale piuttosto che accessori per la moda, che vendono prodotti a full price. Quindi è cambiato profondamente il comportamento del consumatore da un lato, che ormai si aspetta di comprare sia prodotti scontati sia prodotti full price, e soprattutto è cambiato la voglia del consumatore di avere un servizio che spesso non ha, e cioè la possibilità di avere molti prodotti disponibili, la possibilità di scegliere molti prodotti che spesso in un negozio non si riescono a trovare, e soprattutto l'abitudine del consumatore, che negli altri paesi si è ormai sviluppata, di farsi portare a casa i prodotti nelle diverse misure e poi di tenere solo la misura che è più confacente alle sue esigenze e rimandare di fatto al venditore e al produttore i prodotti in esubero. Questo fa diventare in qualche misura la casa una specie di camerino più confortevole che non i camerini dei negozi trafficati. Questo non significa che i due canali, cioè il canale fisico e il canale diciamo online, siano in concorrenza, perché sempre di più si stanno sviluppando modelli misti, dove io ordino il prodotto, me lo faccio mandare a casa, oppure lo provo in un negozio, me lo faccio mandare a casa, oppure l'ordino da casa e poi lo vado a vedere nel negozio, lo vado a ritirare nel negozio. Quindi questo concetto della multicanalità è un altro dei fenomeni che quest'anno si sta sviluppando in maniera rilevantissima, non soltanto nei paesi europei ma anche in Italia. Ancora alcuni numeri per capire quelle dimensioni di questo mercato. Fatti 100 i prodotti che vengono venduti, prodotti e servizi che vengono venduti in Italia, quanto vale l'e-commerce, quindi il canale digitale? E poi volevo anche capire questo mercato se è fatto da grandi player, quindi grandi aziende che credono fortemente in questo settore, o cominciano anche i piccolini, magari piccolini abituati al mondo tradizionale, ad entrare in questo mercato affiancando appunto al canale tradizionale, quello digitale. Ma sicuramente l'Italia, come gli altri paesi, vede un forte processo di concentrazione. I grandi fanno la parte più rilevante, il 70% del mercato è fatto da una ventina di imprese, quindi c'è sicuramente un fatto di concentrazione, perché fare e-commerce vuol dire investimenti rilevanti, vuol dire gestione di complesse macchine organizzative, vuol dire raffinate competenze, e quindi chiaramente chi investe deve investire bene. Questo non significa che però quel 20% che rimane in termini di volume complessivo non rappresenti una coda lunga di migliaia di aziende, perché ormai è evidente che anche in Italia possiamo contabilizzare, diciamo, nella numerosità delle aziende, probabilmente 40 o 50 mila aziende che vendono online, ed è un fenomeno direi mondiale, nel senso che c'è un fenomeno da un lato di concentrazione, ma dall'altro questo non estromette i piccoli operatori dall'entrare in questo mercato. E poi c'è un altro fenomeno importante, che sono le piccole aziende che utilizzano le grandi piattaforme, sia nazionali che internazionali, per evitare di fare gli investimenti in tecnologia, e quindi utilizzano questi che vengono volgarmente chiamati marketplace per in qualche misura vendere i loro prodotti senza dover fare gli investimenti in tecnologie e in complesse macchine. Questo però fenomeno, che è avvenuto in tutti i paesi, che ha portato gli altri paesi europei, noi come Netcom abbiamo fatto recentemente un'associazione con gli altri 8 paesi che si chiama E-commerce Europe a Bruxelles, quindi abbiamo un osservatorio privilegiato su quello che capita anche negli altri paesi. In realtà l'Italia è rimasta molto indietro per la seconda domanda, o anzi la prima domanda, cioè qual è la penetrazione, esatto. Qual è la dimensione del fenomeno? Ebbene, la dimensione del fenomeno è che in Italia mediamente noi vendiamo online una percentuale ridottissima di quello che vendiamo invece nei canali tradizionali, tra l'1 e il 2%, tranne nel turismo, che abbiamo raggiunto quote significative del 15%, ma sia il turismo sia il restante delle vendite che vengono fatte e rapportate al mercato, diciamo, dei canali tradizionali, dicevo l'1-2% di penetrazione rispetto ai canali tradizionali, ci vendono lontanissimi da quello che capita negli altri paesi. Vi faccio un esempio per capirci meglio: mentre le vendite di prodotti tecnologici rappresentano in Italia il 3 o il 4% del totale venduto, cioè le vendite sul canale online, sull'e-commerce rispetto al totale, in Inghilterra siamo al 16%, quindi la media europea, che vede ormai il 10% di penetrazione del canale e-commerce rispetto al totale venduto, mentre in Italia siamo tra l'1 e il 2%, dimostra che c'è un fortissimo ritardo, che è dovuto a diversi fattori, che definirei soprattutto in 3 fattori principali. In qualche misura la ancora scarsa propensione degli italiani a comprare online. Ci sono solo 12 milioni di cittadini che comprano online, rispetto che rappresentano il 15% della popolazione, più o meno, rispetto al 43% della popolazione europea. Dall'altro, una scarsa offerta, nel senso che solo il 4% delle imprese italiane vendono online, quando la media europea è del 15%, e quando l'obiettivo dell'agenda digitale, sia a livello europeo che a livello italiano, pone come obiettivo al 2015 di avere il 33% delle imprese europee che vendono online. Quindi questo è il secondo fattore molto importante. Il terzo fattore, che rende più difficile al sistema Italia di entrare in maniera significativa in questo mercato, è la dimensione delle aziende, che è fatta di aziende normalmente più piccole che negli altri paesi, con scarsa capacità di investire in competenze e in risorse tecnologiche. Certo, anche se è vero che su internet, come dicevamo poco fa, ci sono delle piattaforme che è una sorta di cloud per l'e-commerce, diciamo così. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è un bel vantaggio. È un bel vantaggio, però questo vantaggio, che diciamo nel brevissimo permette alle imprese subito di accedere ai mercati nazionali e internazionali, in realtà ha un limite, nel senso che il futuro dell'e-commerce sta nella capacità di gestire il cliente in tutte le sue articolazioni. Lo conosco, lo coccolo, lo seguo, elaborare i dati che il cliente mi dà, certo. Elaborare i dati che il cliente mi dà, e quindi in qualche misura profilarlo, coccolarlo. Questo è in qualche misura affidarsi a terzi, se è sicuramente comodo, in realtà fa perdere un po' la coscienza e la capacità da parte dell'impresa di gestire il vero asset della vendita, che non è la vendita del prodotto, ma è la gestione del cliente nella sua, diciamo, vita di consumatore, non soltanto sul prodotto, ma nella sua vita lunga. Abbiamo citato l'agenda digitale. Allora io Volevo chiederti, proprio in veste di presidente di Netcom in Italia e membro di questa associazione europea che avete fondato a Bruxelles, per quale motivo, questo lo diciamo ai più scettici, per quale motivo è importante che l'e-commerce cresca e per quale motivo c'è una spinta anche politica all'interno dell'agenda digitale, almeno quella europea? In Italia non mi sembra che si sia scritto molto nel decreto sviluppo 2.0. Ecco, questo è un rammarico. Nel decreto 2.0 l'e-commerce non ha visto di fatto supporto reale, anche se confido che nel lavoro che faremo con le commissioni parlamentari riusciremo a portare una revisione un po' di quelli che sono gli elementi di supporto e di investimento da parte del governo verso questo, diciamo, verso le piccole imprese che devono investire nell'e-commerce ed esportare. La politica, quindi, noi riteniamo il governo si deve assolutamente orientare a dare supporto a questo settore, perché è dimostrato da tutti i dati fondamentali della competitività delle imprese e dei paesi che chi investe in tecnologie e soprattutto chi investe in tecnologie orientate al mercato, al cliente e al commercio elettronico permette alla singola azienda di aumentare la sua competitività, il suo reddito e le sue vendite, e permette al sistema paese di aumentare la sua competitività rispetto agli altri paesi. Faccio un esempio molto semplice. Noi come Netcom stiamo creando una filiera per aiutare le imprese italiane ad esportare in Cina, e quindi è già la terza volta che facciamo una missione in Cina con le imprese per creare tutto ciò che serve per aiutare le imprese, quindi accordi con le carte di credito cinese, UnionPay, 2 miliardi di carte di credito, accordi con la logistica, imprese di logistica che gestiscono il prodotto in Cina per i clienti cinesi, accordi con Baidu, che sono, diciamo, le grosse piattaforme che servono per fare il search da parte dei cinesi. Ecco, tutto questo vede l'Italia stranamente indietro, quando in realtà i 2 miliardi di cinesi e i 193 milioni di clienti cinesi che già oggi acquistano online sono alla ricerca di prodotti italiani. Ebbene, i francesi sono già più avanti in questa prospettiva. Allora, se noi come sistema Italia, come sistema delle imprese, come sistema, diciamo, di governo, riuscissimo a fare quello che sta facendo la Francia per orientare e mettere a regime tutto ciò che serve per supportare le piccole imprese, perché ricordo ancora una volta che le piccole imprese italiane sono più piccole delle imprese francesi e tedesche, noi subito guadagneremmo flussi di esportazione del nostro prodotto verso mercati che sono ad aspettare con ansia che il nostro prodotto sia disponibile, e nel contempo permetteremo alle piccole imprese italiane del Made in Italy di guadagnare competitività e al sistema paese di migliorare ovviamente la sua capacità di export. Mi sembra di capire che di nuovo stiamo parlando di un problema culturale più che tecnologico, anche logistico, perché un tempo si diceva la logistica non è pronta. Oggi molti operatori dell'e-commerce mi dicono che quello non è più un problema. Confermi? Confermo, la logistica non è un problema, ma addirittura oggi si può vendere dall'Italia a un cliente cinese avendo la capacità di mettere in piedi un sistema logistico che ritira il prodotto dal cliente cinese se il cliente cinese lo vuole rispedire al mittente. Quindi la logistica ha avuto negli ultimi 10 anni passi da giganti a livello planetario. È chiaro che ci sarà ancora da investire molto, ma sicuramente questo non è più il problema essenziale. Quindi è un problema di carattere culturale, diciamo, imprenditoriale, culturale. Che cosa c'è di nuovo se guardiamo a quello che accade nel commercio elettronico? Diciamo, la vendita di biglietti per volare non è certo una novità, perché lo si fa da tanto tempo. Anzi, io un po' mi stupisco che le percentuali di vendita del turismo siano ancora così basse, perché mi chiedo, per alcune cose ha senso andare in agenzia di viaggi. Io ho un cugino che ha un'agenzia di viaggi, diciamo, che lavora in un'agenzia di viaggi, e mi racconta sempre dei vantaggi che uno ha, però, diciamo, in generale, insomma, vedrei percentuali molto più alte. Ecco, al di là di questo, che cosa c'è di nuovo? Ad esempio, la mobilità, quindi la crescita degli smartphone e dei tablet, ha cambiato qualche cosa, e cosa e come? Ma ci sono due fenomeni, sicuramente, per riprendere il punto che mi hai in qualche misura suggerito di riflessione. Ci sono due fenomeni molto importanti. Il primo, in termini di offerta, è quello che è avvenuto nell'e-couponing. Sicuramente negli ultimi 2 anni tutti conoscono il fatto di poter comprare, avere un'offerta la mattina presto di una ristorazione piuttosto che di un massaggio, piuttosto che di altri servizi di entertainment che sono a disposizione di tutti con sconti del 50%, e questo ha permesso di raggiungere 10 milioni di italiani. Ci sono, sembra dalle riflessioni che abbiamo fatto con gli operatori, 10 milioni di italiani che tutte le mattine ricevono un'offerta scontata del 50%. Questo in qualche misura ha scosso un pochettino i più riluttanti, tant'è che dalle analisi che abbiamo fatto noi, e questo è un fatto estremamente positivo, gli italiani che comprano online sono cresciuti di 3 milioni dal luglio del 2011 al luglio del 2012, quindi quasi il 30%. Quindi 3 milioni di nuovi italiani che hanno comprato perché? Perché da un lato queste offerte hanno sicuramente invogliato ad approcciare il commercio elettronico, dall'altro lo smartphone è diventato uno strumento che consente di cercare le informazioni e anche di fare acquisti. Spesso si dice che l'Italia è il paese più avanzato in termini di numero di smartphone, 30 milioni di italiani hanno lo smartphone. Stranamente però, mentre negli altri paesi gli smartphone sono inferiori rispetto all'Italia in termini di penetrazione, però negli altri paesi anche lì si compra di più con lo smartphone di quanto perché sono gli italiani, perché lo usano di più. Bene, io ringrazio Roberto Liscia per essere stato con noi in questa puntata di 2024. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi e buon proseguimento. Era Roberto Liscia, presidente del consorzio per il commercio elettronico in Italia, Netcom. L'intervista che vi abbiamo proposto è in versione originale solo per i nostri utenti del podcast. A proposito di interviste che vi proponiamo solo nella nostra versione online, quindi come premio per aver scaricato questa versione, parliamo degli editori italiani dei quotidiani che si sono uniti a francesi e tedeschi contro i motori di ricerca. Tradotto potremmo dire Google, che usa contenuti prodotti dalle redazioni dei giornali, poi vengono proposte sui siti internet, ma vengono utilizzati per creare aggregatori come ad esempio Google News. Allora, l'obiettivo degli editori è quello di vedere riconosciuto un contributo per quello che viene pubblicato. Di contro, i motori di ricerca hanno sempre sostenuto che gli editori dovrebbero ringraziare perché buona parte del traffico che arriva sui loro siti web è generato proprio dal motore di ricerca. Fabrizio Carotti è il direttore generale della Federazione Italiana Editori di Giornali. Lo ha intervistato Giuseppe Borello. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di tutelare anche online la proprietà intellettuale dei prodotti informativi. Parliamo in particolare dei motori di ricerca, utilizzano i contenuti editoriali per fare un'attività di business, per cui ci sembra necessario che il prodotto venga tutelato per vedere riconosciute anche da questi soggetti dei diritti che contribuiscono in questo modo a mantenere gli investimenti adeguati alla produzione di informazioni. Non spaventa magari un'eventuale rottura con i motori di ricerca? No, però per noi diciamo più che rottura è semplicemente far riconoscere che se c'è un'attività di business che viene svolta utilizzando contenuti di altri, chi lo fa riconosca che anche grazie a quei contenuti può fare un'attività, può fare business, può fare reddito. Tra l'altro il ragionamento potrebbe anche essere diverso: quanti utilizzerebbero quei motori di ricerca se non ci fossero i contenuti dei prodotti editoriali? Parliamo di 4G perché da martedì anche in Italia arrivano i primi servizi commerciali con tecnologia LTE di quarta generazione mobile. Inizia Vodafone dal 30 di ottobre, ne abbiamo parlato con il direttore della divisione Consumer Mobile, Stefano Gastaut. Siamo molto contenti di partire martedì con il 4G su Milano e Roma, dopodiché entro marzo dell'anno prossimo saremo sulle prime 20 città italiane, quindi abbiamo un piano molto aggressivo di copertura poi del resto dell'Italia. Il 4G offre un'esperienza molto diversa e direi fantastica, io l'ho provato in questi giorni rispetto al 3G, nel senso che offre velocità di scarico dei dati fino a 100 megabit per secondo, velocità di uplink, come si dice, quindi quando si caricano cose su internet, fino a 50 megabit per secondo, e prestazioni anche di qualità del video, che sono tipo la televisione in alta definizione. Quindi direi veramente una rivoluzione. Allora, per il momento abbiamo detto Roma-Milano, quindi parliamo di un gruppo di consumatori sicuramente importante, ma ancora privilegiato, chiamiamoli così. Ma c'è un altro problema e soprattutto un altro vincolo, che non ci sono molti prodotti sul mercato che permettono di raggiungere queste velocità, quindi che sono abilitati per l'LTE, per il 4G. Da questo punto di vista, che cosa c'è di nuovo, cosa c'è sul mercato e che cosa ci sarà tra poco? Allora, da martedì nei nostri negozi ci saranno tre prodotti, una chiavetta che è in tutto simile come design alle chiavette che si usano sui computer, sui laptop 3G, solo che questa è la versione 4G. Poi avremo un modem Wi-Fi, che è il modem quello che ci si può portare appresso e che abilita più apparati creando una specie di hotspot Wi-Fi personale. E poi il terzo oggetto che lanciamo è un tablet Samsung da 8.9 pollici, anch'esso appunto in versione 4G. Quindi diciamo che tre oggetti per partire, e poi seguiranno, diciamo, molti altri strumenti nei mesi successivi. Sì, sul mercato mi sembra di capire che c'è solo iPhone e le nuove versioni dei principali smartphone che stanno per uscire in versione LTE. Corretto, diciamo che avremo dei lanci di telefoni Nokia, poi alcuni Samsung, lei ha già citato iPhone, quindi diciamo tutte le case arriveranno sul mercato con smartphone 4G, si inizieranno a vendere, e dopodiché invece l'utilizzo della voce sul 4G per noi verrà abilitato soltanto a partire da gennaio, quindi nell'anno prossimo, mentre partiremo focalizzati sulla parte dati, quindi chiavette, ripeto, hotspot Wi-Fi e tablet. Sì, ma per la voce non cambia nulla, non è che si sente meglio? No, per la voce non cambia nulla, non cambierà nulla, ma per l'utilizzo dei dati sugli smartphone si partirà invece da gennaio l'anno prossimo. Senta, questa nuova offerta non è che costa uguale a quelle che ci sono oggi, costerà immagino di più. Diciamo che le prestazioni sono completamente diverse, è un'esperienza proprio di navigazione su internet molto diversa, i prezzi con cui lanciamo sono circa di 10 euro più cari rispetto alle stesse offerte del 3G, quindi per fare un esempio, una chiavetta 3G costa 20 euro al mese e una chiavetta 4G con il traffico costerà 30 euro al mese, però raddoppiamo la quantità di dati. Devo dire due cose sul 4G, ma lo faccio dopo le notizie di GR24, quando cominceremo a parlare di Windows 8, a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Sono le 16:08 minuti, riprende 2024 in questa puntata del 27 ottobre 2012, il nostro numero verde 800240024. Io sono Enrico Pagliarini, potete raggiungerci via email a 2024@radio24.it oppure anche usando Twitter, c'è sia l'account di 2024 sia quello di Enrico Pagliarini, basta cercarlo nella ricerca di Twitter così come per Facebook. Allora, abbiamo parlato poco fa di 4G dell'LTE, io direi che possiamo anche smettere di chiamarlo LTE, perché LTE vuol dire Long Term Evolution, e questo andava bene 6-7 anni fa quando c'erano i primi test e si cominciavano a vedere le prime performance di questo sistema. Oggi potremmo chiamarlo semplicemente 4G. Allora, inizierà il 30 di ottobre, quindi fra tre giorni, Vodafone in due città, poi il 7, quindi qualche settimana dopo, sarà la volta di TIM, che ha annunciato la partenza di questi servizi in quattro città. Per tutte le tariffe vi rimando ai rispettivi siti internet, attendiamo notizie da tre. Prima Stefano Gastaut di Vodafone ci anticipava che grosso modo saranno il premium per avere questo servizio sarà di 10 euro rispetto alle tariffe attuali, ma una cosa va detta, lo ha detto ma forse è bene richiarirlo, che entrambe le aziende, quindi sia Vodafone che TIM, abiliteranno per il momento la navigazione dati in mobilità 4G solo su chiavette e altri su tablet e anche sui cosiddetti i dongle per il wifi. Allora, non al momento su smartphone. Per smartphone la navigazione 4G verrà abilitata in un secondo momento. Vodafone da gennaio, TIM vedremo. Attendiamo notizie da Tre e poi naturalmente a seguire anche da Wind. Comunque sui siti nei prossimi giorni ci saranno maggiori indicazioni. Allora, ci sono alcuni nostri ascoltatori che ci fanno delle domande sulle emissioni elettromagnetiche del 4G. C'è chi fa confusione tra il 4G e il WiMAX, che sono due cose diverse. Allora, proprio per rispondere a queste domande, nelle prossime settimane, quando i servizi commerciali 4G verranno lanciati e saranno operativi da qualche settimana, faremo un approfondimento per capire che cos'è, anche se l'abbiamo già detto tante volte, quali sono le reali performance, perché un conto è oggi, quindi nei prossimi giorni, quando ci saranno poche persone collegate alle antenne, un conto è vedere quando ci saranno magari migliaia di persone collegate al 4G, che cosa accadrà, quali sono le interferenze che attualmente ci sono ancora con alcune frequenze per emettere la TV digitale. Insomma, ci sono tantissime cose da dire sull'LTE, sul 4G. Vedete, anch'io faccio ancora l'errore di dire LTE, chiamiamolo 4G e basta. Allora, dico un'ultima cosa per rispondere a alcuni dei nostri ascoltatori, e più che altro è un saluto che faccio a tutta la comunità di Linux che oggi festeggia il Linux Day, che si sono riuniti in oltre 100 città. E detto questo, saluto Claudia Bonatti, che è direttore della divisione Windows Italia. Benvenuta 2024. Buongiorno. Possiamo sorridere perché, certo, proprio nel giorno in cui c'è il Linux Day noi parliamo di Windows. Certo. Abbiamo salutato appunto la nostra, la community, chiamiamola così, di persone che ci scrivono tutte le settimane. Però ricordiamo che nonostante questa community sia molto attiva, Linux non si è molto diffuso e Windows oggi è presente in quanti computer? 9 su 10, 93% sì, circa, letto? Circa. In azienda e in casa, insomma, dati che conosciamo e esperienze che sappiamo. Saluto anche Gianfranco Giardina, bentornato Gianfranco. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Gianfranco Giardina, assieme alla redazione del magazine digitale dday.it, sta provando già da settimane o mesi Windows? Mesi oramai, mesi, in tutte le sue release precedenti, ecco, e da un giorno ovviamente nella release definitiva. Definitiva, perché diciamo che Gianfranco, molto di Windows 8 si sapeva già perché c'è disponibile da alcuni mesi una versione per gli sviluppatori, giusto? Sì, c'è stata prima una versione per gli sviluppatori, poi una versione beta, poi è circolata anche una definitiva, diciamo in maniera non troppo legale, trasparente, comunque circolata, e quindi è stato modo di provare, di vedere via via l'evoluzione di questo sistema operativo fino a prendere le forme finali di questo sistema operativo. Dobbiamo parlare di tutte le sfaccettature molto articolate, no? Di questo, che più che un sistema operativo si propone di essere un vero e proprio ecosistema, e quindi una linea che collega non soltanto PC ma tutti gli altri device a cui ormai siamo abituati. Esatto. Allora, io ho pensato a lungo questa mattina se far ascoltare la voce di Steve Ballmer, che è il vostro capo a Microsoft, però ho detto no, abbiamo Claudia Bonatti, allora lasciamo la parola solo a lei. Però vorrei partire da un concetto, visto che Ballmer, ma non solo Ballmer, è stato detto più volte che per Microsoft e poi naturalmente per tutti coloro che utilizzano Windows si tratta di un cambiamento di epoca, di era. Per quale motivo? Non è esagerato dire così? No, non è esagerato dire così. Noi abbiamo detto che abbiamo reimmaginato Windows, quindi l'abbiamo ripensato completamente per mettere insieme il meglio del mondo del tablet con il meglio del mondo del PC. Oggi molti di noi usano entrambi gli strumenti, ognuno di questi è caratterizzato per ottimizzare alcune prestazioni. Sul tablet, i tablet sono perfetti per il touch, sono perfetti per la fruizione di contenuti internet, contenuti multimediali, per la connettività con i social network e così via. Sono molto leggeri, hanno una durata della batteria molto, molto lunga, quindi sono molto comodi per quando si deve ci si deve muoversi, si lavora fuori ufficio, fuori casa. I PC invece sono ottimizzati per il mondo della produttività, sono molto legati a questo concetto, posso collegare qualsiasi accessorio, ho una scelta di software pressoché infinita. Sono meno ottimizzati per il touch, o almeno non lo sono stati fino all'arrivo di Windows 8. Windows 8 mette insieme questi due mondi, quindi io posso avere dei device, siano essi dei tablet o dei form factor, quindi dei computer, dei PC più tradizionali, dove con la stessa interfaccia e con la stessa modalità di interazione io ho il meglio dell'interazione touch, del consumo e della fruizione via internet, ho la mobilità che un tablet mi consente di avere, ma ho anche insieme tutto il mondo della produttività. Posso continuare a collegare qualsiasi accessorio, posso continuare a installare il software che avevo utilizzato su Windows 7. Questo è il concetto generale, tra poco sì. Noi scenderemo nel particolare. Sono le 16:15 minuti, adesso c'è la viabilità. Vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci per intervenire per le vostre domande, le vostre considerazioni: 800 24 00 24. Tra poco 2024. Stiamo parlando di Windows 8 e tra poco parleremo anche di Windows RT, magari faremo un accenno anche a Windows Phone che verrà lanciato la prossima settimana. Claudio Bonatti, tu hai accennato al touch, allora noi siamo abituati a utilizzare il touch negli smartphone, sui tablet. Posso dire che una delle novità è che il touch, quindi gli schermi a tocco che io posso comandare con le dita, arrivano anche sui desktop, cioè sui computer classici da casa in ufficio? Sì, da ieri, giorno del lancio, abbiamo nei negozi e presso i rivenditori una grandissima scelta, veramente decine di nuovi modelli tra tablet convertibili, che sono un formato nuovo interessante dove io a un tablet aggancio una tastiera e lo faccio diventare un notebook. Abbiamo dei notebook touch, abbiamo schermi touch anche di grandi dimensioni, abbiamo gli all-in-one. Quindi c'è una scelta ampissima di formati. Esatto, a proposito di formati, anche di questo parliamo, abbiamo sentito Stefano Venturi, che è l'amministratore delegato di HP in Italia, sicuramente uno dei più grandi produttori di computer, e sicuramente i produttori di computer, che sono i vostri partner privilegiati perché portano nelle case, negli uffici Windows, sono fortemente interessati. Allora, anche a Venturi ho chiesto se è d'accordo nel ritenere che questa sia un cambiamento di epoca. Ma io direi che una svolta sicuramente c'è, e la svolta qual è? Io lo definirei un po' l'anello mancante tra il tablet e il PC, ed è una cosa estremamente significativa questa possiamo dire unificazione, no? Il fatto che Windows 8 mette vicino i due mondi. E infatti c'è stata fino ad oggi un po' una dicotomia, due ambienti fondamentalmente diversi, e soprattutto i tablet che fanno fatica a integrarsi negli ambienti aziendali, nelle reti enterprise, con le applicazioni enterprise. Ebbene, Windows 8 ha unito i due mondi e permetterà sicuramente alle aziende di integrare molto meglio i tablet con le proprie applicazioni. Negli ultimi mesi abbiamo più volte commentato la forte crescita del settore smartphone e tablet e il rallentamento del segmento dei PC. L'arrivo di Windows 8, voi pensate che possa dare una spinta, oppure la crisi continuerà ad avere il sopravvento, quindi anche con Windows 8 non vedremo ripartire questo mercato? Certamente la crisi rappresenta una forte corrente a sfavore, ecco, però devo dire che l'arrivo di Windows 8 dà quella spinta al motore che sicuramente farà risalire la corrente della crisi. Cosa intendo per questo? Beh, prima di tutto, appunto, questa unificazione tra il PC e il tablet e l'entrata del tablet nel mondo aziendale, ma soprattutto l'arrivo un po' di nuovi device. Per esempio noi, e sicuramente lo faranno altri, ma noi con l'entrata di questo nuovo mondo abbiamo lanciato due prodotti che prima non esistevano. Uno è il modello Envy X2, che è un PC tablet, quindi un PC a cui si stacca lo schermo, ma lo schermo vive di vita propria. La CPU è lì dentro e c'è dentro batteria, CPU, memoria, tutto quanto, si trasforma in un tablet. Così come Abbiamo introdotto un'altra nuova cosa, che sono questi PC all in one, cioè un modello di PC all in one con lo screen touch. Ecco, questi due oggetti prima non esistevano, prima dell'arrivo di Windows 8, quindi direi che questa è una prova significativa che dà all'industria quella spinta di innovare, di introdurre nuovi oggetti. E questo era Stefano Venturi, amministratore delegato di HP Italia. Allora, Gianfranco Giardina, scendiamo nel particolare, perché ci sono due o tre cose che vorrei approfondire. Allora, la prima, sia Claudio Bonatti che Venturi ci hanno detto che c'è questa unificazione tra mondo dei tablet e mondo PC, che è vero per quanto riguarda l'interfaccia, giusto? Parliamo anche di questa interfaccia. Beh sì, allora dobbiamo forse dividere la questione in due, no? Quindi noi abbiamo un'interfaccia molto nuova, così nuova appunto da chiamarsi Modern UI, cioè UI precisamente, UI, esatto. UI, cioè User Interface, che prima si chiamava Metro, quindi molti l'hanno già sentita nominare come Metro. Ecco, questa interfaccia è un'interfaccia che già abbiamo visto sui Windows Phone 7, e quindi è ereditata, o meglio non è tanto ereditata, ma è l'evoluzione di quello che abbiamo visto su Windows Phone 7, che è caratterizzata da questi da queste tessere, no? Da questi quadrettoni. Io non le voglio chiamare tile come vengono chiamate dovunque, perché noi abbiamo tessere, quadrettoni, quadrati, quadratini. Ah beh, poi guarda, ti potrei fare degli SMS degli ascoltatori che a volte giustamente, a volte un po' poco giustamente, si lamentano del fatto che vengono usati molti termini in inglese. Bisogna anche un po' abituarsi, la tecnologia, insomma, non si può tradurre tutto. Comunque, questa interfaccia diventa unificante. Unificante su tutti i sistemi Windows, quindi partendo dal PC più ortodosso, quindi più tradizionale, il PC business sulla scrivania, fino ovviamente alle versioni notebook, convertibili, come abbiamo sentito, e poi anche, quindi convertibili vuol dire che già il monitor si stacca e diventa un tablet, quindi anche tablet senza tastiera, e così via, arrivando fino a Windows Phone 8 o anche Windows Phone 7, che già aveva questa forma di interfaccia. Ecco, questo aiuterà molto gli utenti a interagire con le macchine, perché l'esperienza fatta su un sistema potrà essere riportata pari pari su un altro sistema, quindi questo diventa veramente un'esperienza unificante. Quanto poi questi siano sistemi operativi uguali o anche soltanto simili, beh, qui ci sono invece tanti distinguo, perché ovviamente Windows 8 è un sistema operativo per processore Intel, questo va detto chiaramente, funziona solo su processore Intel. Windows Phone 8 invece funziona su altro tipo di processori, e poi una cosa diversa è ancora Windows RT, di cui abbiamo parlato, visto che io l'ho citato alcune volte durante la trasmissione. Anche questa è una novità, cioè arriva Windows 8 e arriva anche Windows RT, che sì, è la prima volta che un ambiente Windows, di fatto, cioè simile PC, diciamo così, gira su un processore ARM, cioè non Intel, che è il processore che vengono normalmente utilizzati fino ad oggi sulle piattaforme tablet e anche smartphone. Sì, diciamo una cosa su ARM, perché è bella, anche perché può sembrare una cosa da tecnici, però io l'altro giorno lo dicevo con Anita Panizza, che mi aiuta in redazione, ha detto: ah, bellissimo, allora spiego. Allora, ARM è una piattaforma che l'azienda ARM britannica concede in licenza, e praticamente tutti i tablet e tutti gli smartphone, o comunque la stragrande maggioranza, sono costruiti su questa piattaforma. Paghi la licenza e puoi costruire un processore di questo tipo. Lo fa Qualcomm, lo fa Apple, lo fa Nvidia, insomma lo fanno in tanti e li mettono lì. Allora, per questo andava scritto un software ad hoc. Andava fatto proprio un porting dell'ambiente Windows, precisamente che funzionasse su questo tipo di processori. È stato fatto, si chiama appunto Windows RT, non è Windows 8, ha forse il difetto in termini di chiarezza di essere lanciato nello stesso giorno, day and date, con Windows 8, e poi si presenta in maniera assolutamente identica, almeno l'interfaccia uguale. L'interfaccia, almeno quella iniziale, è uguale. C'è anche l'interfaccia desktop, quindi quella a cui siamo noi abituati a vedere su Windows tradizionalmente, quindi c'è anche l'interfaccia, diciamo, più tradizionale. Ci sono anche già precaricati su Windows RT degli applicativi a cui siamo già molto abituati, al di là di tutti gli accessori tipici di Windows, anche Office in una versione appunto RT, quindi tutti gli applicativi principali Office sono già presenti e ottimizzati evidentemente per l'interfaccia touch, perché Windows RT nasce praticamente per l'applicazione su tablet, no? E quindi su quel tipo di form factor. L'unica differenza, la grande differenza vera, è che essendo compilato per processori ARM, comunque non è in condizione di far girare gli applicativi Windows, esatto, tradizionali, questo, quelli che vengono chiamati legacy o comunque quelli che con i quali abbiamo avuto a che fare fino a ieri, mentre girano tutte le nuove app. E quindi facciamo, magari dividiamo il mondo così in programmi, come siamo abituati a pensarli, e app, quindi le nuove generazioni che sono stati pensati per girare anche su questo processore. Ecco, Claudia, distinguiamo le cose che si possono fare su questi due mondi, Windows 8 e Windows RT, che cosa ci si può installare, che cosa non ci si può installare, e soprattutto che tipo di... Abbiamo detto che l'interfaccia utente è la stessa, quindi li pilotiamo. Sì. Io ieri con Gianfranco chiacchieravamo e io, per verificare se avevo capito, ho detto: beh, come che io abbia un'automobile utilitaria, una di media cilindrata e uno Spider 2005 di cilindrata con lo stesso cruscotto, la stessa pedaliera, cioè l'interfaccia con cui uso questi strumenti è la stessa. Sì, non devo imparare, passando da un, un RT a un Windows 8, non devo imparare niente di nuovo. È vero che le due piattaforme hanno compatibilità diverse. Un PC Windows 8 è un PC che si o un tablet Windows 8 si comportano come come si comportavano sul mondo Windows 7. Significa che posso collegare qualsiasi accessorio. I tablet sono forniti di porte USB, quindi posso collegare il mouse, la tastiera, posso collegare una macchina fotografica, una stampante, una chiavetta USB. E posso installare qualsiasi software sia compatibile con Windows 7, quindi sia software di produttività personale, non so, un editing fotografico, editing di video, Photoshop, ad Photoshop lo installo senza problemi, ne fruirò sull'interfaccia desktop e quindi non cambia niente. Per il mondo aziendale, tutto il software che avevo acquistato per la mia azienda, CRM, gestione clienti e così via, lo posso installare senza problemi. Quindi da questo punto di vista c'è una continuità completa con il passato. RT è, come dicevamo, un'architettura diversa. Il software che io posso installare sono le app che io installo attraverso Windows Store, quindi queste sono le cose che io posso installare. Anche qui bisogna dire che i produttori di software potranno sviluppare i loro programmi anche all'interno del Windows Store e proporli all'interno del Windows Store. Quindi nel tempo potremo trovare anche degli applicativi a cui siamo più abituati nel mondo PC anche su questa piattaforma. E quindi potremo fruirne. Per quanto riguarda gli accessori, molti degli accessori possono funzionare anche su RT, va fatta una verifica caso per caso, però la stragrande maggioranza, soprattutto di quelli usciti negli ultimissimi tempi, quindi mouse, tastiere, stampanti, funzionano perfettamente anche su Windows RT. Facciamo un esempio. Se io, anche per capire che tipo di collegamento ci può essere tra le due piattaforme, se io ho Windows 8 sul mio computer, compro un programma, chiamiamolo proprio col nome suo, un bel Photoshop ad esempio, non posso installarlo sull'RT, sulla versione per tablet RT, perfetto. Se invece sul mio computer vado su Windows Store, che è il nuovo store lanciato per l'occasione, e installo una app sul mio computer, posso poi installarla anche su Windows RT, quindi sul mio tablet con RT? Sì, le applicazioni che troviamo nello store sono certificate, funzionano sia sui device che hanno il touch, sia su quelli che non ce l'hanno, quindi con mouse e tastiera. Se non hanno queste caratteristiche non vengono certificate, proprio perché l'applicazione, l'app deve poter essere installata su qualsiasi macchina. Io posso installare l'applicazione che ho acquistato, è chiaro, se l'applicazione è gratuita non ho grossi problemi, la installo tutte le volte che voglio. Se l'ho acquistata posso installarla fino a 5 device, quindi l'acquisto una volta, la installo sul mio PC Windows 8 e sul mio Windows RT. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità, riprendiamo tra poco con i nostri ascoltatori. 2024. Nando da Cagliari ci ha scritto un messaggio, faccio una parentesi visto che abbiamo parlato di 4G, che è un tema sicuramente sul quale torneremo, e dice: ho un iPhone 4 con il 4G, devo buttarlo via? No, non ti preoccupare, stai tranquillo, lo potrai continuare ad utilizzare con le tecnologie attuali, quindi con il 3G, col GPRS, il GSM tradizionale, eccetera eccetera. A parte che l'iPhone 4 col 4G non funziona proprio, ma non c'è nessun problema, tu non ti accorgi di nulla, continui a usarlo come hai sempre fatto. Poi a Cagliari non so nemmeno se arriverà entro la fine dell'anno o i primi mesi del prossimo anno. Non è come la TV digitale terrestre, per cui le vecchie frequenze sono state spente, sono state accese delle nuove, quindi tutti hanno dovuto cambiare macchina. Torniamo a Windows 8. Nazareno da Milano, il nostro numero verde 800240024. Nazareno, buongiorno. Buongiorno, anzi, buonasera. Una cortesia, che volevo fare una domanda su Windows 8. Io nel mio computer c'ho il desktop, insomma, quello fisso. Ecco, c'ho Windows 7, io quando l'avevo acquistato avevo Vista e vorrei installare Windows 8, ma è un aggiornamento di Windows 7 o devo praticamente formattare il computer, praticamente mettere il dischetto e mentre che carica il sistema operativo devo cancellare il vecchio sistema, il vecchio Windows 7 e installare il Windows 8? Domanda ottima, ne approfittiamo allora per rispondere. Grazie Nazareno. Claudio Bonatti, no, uno può... Posso installare, posso aggiornare il mio PC tranquillamente. Allora, i requisiti di sistema di Windows 8 sono gli stessi di Windows 7, quindi una qualsiasi macchina che faccia girare Windows 7 permette di installare Windows 8. Come faccio questo aggiornamento? Ho due modalità che hanno una differenza essenzialmente economica, diciamo. Posso andare in un negozio, acquistare una scatola, costa circa 59 euro, ho il DVD, inserisco il DVD nel lettore e faccio il processo di aggiornamento. Oppure, per una cifra più bassa, circa 30 euro, posso collegarmi al sito windows.it e ottenere in download gli stessi bit. L'aggiornamento. Quindi è la stessa. Se uno è, non so se dire fortunato o sfortunato, che ha comprato un computer da giugno in poi, può pagare ancora meno. Paga ancora meno, sì. Può pagare l'aggiornamento 15 euro. Sempre in download dal sito Windows. Comunque, a proposito di versioni, quella di cui noi stiamo parlando, Windows 8, è un nuovo sistema operativo, non è l'aggiornamento del 7. Sì, è nuovo nel senso che non è un 7 punto qualche cosa a cui eravamo forse abituati in passato, è completamente nuovo, come avevamo raccontato, ha questa interfaccia nuova, una nuova modalità di interazione, soprattutto ottimizzato per il touch, che era la cosa che prima non c'era. Ciò non vuol dire che non funzioni perfettamente anche su macchine tra virgolette vecchie che non hanno il touch, questo è importante da dire. Io utilizzo benissimo Windows 8 con un mouse e una tastiera, anche sul desktop che il signore ha appena citato. Gianfranco, voi avete installato su una macchina un po' vecchiotta? Abbiamo installato su un po' di tutti, anche su un portatile direi abbastanza datato. Io ho fatto l'upgrade ieri sulla mia macchina di produzione, quindi sulla quella che uso tutti i giorni in redazione, che è un desktop con due monitor e senza touch, no? E devo dire che il processo di upgrade è assolutamente solido, l'ho fatto online, l'ho fatto quindi senza disco, decisamente online, è solido, non ha dato alcun problema, tutto sommato è anche abbastanza veloce ed è semplice per tutti gli utenti, cioè non c'è bisogno di avere capacità particolari, va a buon fine. E dopodiché però ci si trova di fronte a un'interfaccia nuova e qui possono incominciare piccoli problemi, anche se mentre il sistema operativo si carica diciamo le schermate che devono far passare un po' di tempo ti insegnano già quali sono i gesti che devi fare col mouse per accedere alle funzioni. Ecco, qualche cosa devo dire di spiazzante c'è. Intanto perché qualsiasi interfaccia nuova e qualsiasi funzionalità nuova spiazza. Questo quindi dobbiamo un po' dare del tempo. Io credo che non possa essere fatto un giudizio vero sull'utilizzabilità di Windows 8 con il mouse se non dopo almeno una ventina di giorni di utilizzo continuativo, ma su una macchina vera di produzione, nel senso che soltanto dopo un po' si riesce a forse valutare e anche scatenare tutti gli automatismi, no? Dopodiché, una volta scatenati questi automatismi, che noi abbiamo già in qualche modo scatenato nelle prove dei mesi scorsi, tutto diventa molto, molto più semplice, molto più intuitivo, anche se alcune cose spiazzano comunque. Per esempio, per scorrere in orizzontale la schermata start con tutti i riquadri, devo col mouse muovere la rotella del mouse, che ha un andamento tipicamente verticale, ecco, sì, quindi certo. Per esempio su quello non è però la sua volevo tranquillizzare quelli che amano la tradizione, e io devo dire che a volte sono tra quelli, cioè su un computer se uno non vuole usare questa interfaccia nuova, e devo dire che se c'è il touch è molto divertente, molto facile da usare, molto comoda. Se uno vuole usare il classico desktop come c'è oggi, diciamo, ancora oggi, può farlo, cioè c'è una certo. modalità. Allora, Windows 8 mi propone due ambienti diversi di lavoro e io posso passare veramente con un click da uno all'altro. Ho l'interfaccia Start di cui abbiamo appena parlato, con i riquadri animati dove io ho tutte le mie app, e ho il desktop. Quando richiamo il desktop mi trovo in un ambiente che è identico a quello di Windows 7. La fruizione attraverso il mouse e la tastiera è identica a quella che avevo, quindi se ho un processo di apprendimento di utilizzo del mouse sull'interfaccia Start, nel momento in cui mi muovo nell'interfaccia desktop questo processo non è necessario, perché faccio le stesse cose che facevo prima. E su questa interfaccia è quella dove in genere io lavoro, perché è quella dove ci sono i programmi di produttività, come dicevamo, è quella dove ho Office piuttosto che il Photoshop, piuttosto che i miei programmi aziendali, che continuo a utilizzare come avevo sempre utilizzato. E quindi in questo senso mi ritrovo in un ambiente molto familiare e dove la mia produttività è immediata, dove non devo avere un processo di apprendimento. Diciamo una cosa importante sulle app. Per la prima volta sui computer desktop arrivano le app. Attendere, saranno tutte app? Cioè i programmi scompariranno? Questo lo deciderà il mercato, lo decideranno i consumatori e il mondo della tecnologia. Cioè, di fatto però poi un'app o un programma sono più o meno la stessa cosa. Sì, sono la stessa cosa, ne fruisco in maniera diversa. La cosa da dire è che ci sono due aspetti importanti da tenere in considerazione. Windows, come dicevamo, gira su un numero di PC enorme nel mondo, quindi sono tantissime persone che lo usano e che sanno come utilizzarlo. E ci sono stati enormi investimenti su questa piattaforma. Noi non vogliamo che tutto questo vada perso, quindi il mondo dei programmi così come lo conosciamo oggi è un mondo che ha una grossa legacy e che noi rispettiamo, e quindi pensiamo che continuerà ad avere una vita piuttosto lunga. È vero che soprattutto col proliferare di strumenti che hanno un'interfaccia touch, è sempre più importante avere dei programmi che sono facili da utilizzare con il touch. Questo sembra una cosa banale, però devono essere disegnati in modo che il mio dito, che magari non è microscopico, riesca a cliccare correttamente tutti i vari comandi. Il mondo delle app è un mondo che è ottimizzato per questo tipo di fruizione, quindi sicuramente attendere andrà ad ampliarsi, la velocità con cui andrà ad ampliarsi appunto la deciderà il mercato. Per ora sono disponibili entrambe. Abbiamo accennato, ma almeno un paio di volte, forse anche tre volte, in inglese si dice form factor, insomma a modelli diversi che arrivano con Windows 8. Gianfranco, che cosa vuol dire? Perché abbiamo accennato ai tablet e fin qua abbiamo capito. Beh, vuol dire che sullo stimolo, sull'onda anche dell'entusiasmo di Windows 8, i produttori di apparati, quindi di computer, device e tutto quello che ci sta anche in mezzo, i tablet più piccoli, i notebook, hanno pensato a delle variazioni sul tema per enfatizzare le possibilità offerte a Windows 8 dallo schermo touch. Per esempio, mi viene in mente adesso come cosa un po' anomala, per esempio il Sony Vaio Tap 20, che è un tablettone, potrei dire, cioè quindi è un PC a tutti gli effetti, però solo schermo. Ovviamente si può utilizzare anche con tastiera e mouse wireless o anche a filo volendo, ci sono le prese USB, però ha la batteria, ha un piedistallo mobile che permette di posizionarlo sia in verticale che su tavolo, quindi farlo diventare un piano d'appoggio per anche un utilizzo condiviso tra più persone su un tavolo, e quindi è una cosa che non esisteva prima oggettivamente, come allo stesso modo anche sull'onda dei convertibili, diciamo, che esistevano già nel mondo Android. Ricordiamo che Asus col Transformer aveva già da tempo fatto vedere un concept di questo tipo, cioè più che un concept, un prodotto finito di questo tipo. Ecco, in questo caso arrivano anche su piattaforme Windows che forse danno maggiore confidenza agli utenti, perché possono appunto anche far girare in caso sia un Windows 8, le vecchie applicazioni, quindi avere tutti i vantaggi di un PC e tutti i vantaggi di un tablet nello stesso apparecchio. E questo è un po' la sfida, no? Qui bisogna capire se la visione corretta è quella di avere più apparecchi per usi diversi oppure avere degli apparecchi convertibili. E quindi qui vedremo probabilmente dei form factor che avranno un grosso successo commerciale e magari dei form factor che saranno soltanto degli esercizi di stile, ma non andranno da nessuna parte. Questo però non lo decidiamo noi, si decide a registratore di cassa, sì, con gli scontrini, sì. E basta. Senti, questa settimana ci sono state almeno due presentazioni, sia Asus che Samsung hanno presentato i loro nuovi prodotti. Sul mercato, in estrema sintesi, che cosa c'è di disponibile di nuovo? Ma di nuovo ci sono sicuramente una serie di tablet PC, chiamiamoli così, questi convertibili. Ci sono sia in versione Windows 8 che in versione Windows RT. Ecco, qui si apre un piccolo capitolo, cioè quello che abbiamo detto, questa piccola dicotomia interna tra Windows 8 e Windows RT, va capita dagli utenti, è bene che se ne parli, è bene che se ne parli in maniera approfondita, è una possibilità in più per gli utenti, a patto che gli utenti siano consapevoli. Ecco, questi oggetti, purtroppo, Windows 8, i tablet Windows 8 e i tablet Windows RT si presenteranno in maniera molto simile, sia per form factor, perché di fatto si presentano come dei tablet con o senza tastiera, sia per interfaccia, l'abbiamo detto, assolutamente identica, e anche per strane coincidenze della vita, anche per prezzo. E quindi se venissero esposti in negozio in maniera indifferenziata, senza chiarezza, potrebbe essere una fonte di confusione. Qualcuno potrebbe portare a casa un Windows RT convinto di far girare la vecchia utility che scarica da web, per esempio, piuttosto che un giochino. C'è chi mi ha parlato e io, finché non trovo un tablet che mi fa girare il mio gioco della briscola che ho per Intel, non sarò mai contento. Sì, ecco, sì, pensa sì, di poterlo fare. Ecco, potrà farlo con un Windows 8, non potrà farlo con un Windows RT. L'importante è che lo sappia bene, se no rischia di tornare in negozio. E da questo punto di vista, siccome sia Asus che Samsung, i brand che tu hai citato, offrono entrambe le soluzioni, e così faranno anche altri, qualche retailer ha già invece sbagliato gravemente dei volantini, perché scrive Windows 8 vicino dei Windows RT, creando probabilmente confusione. Ecco, io spero che anche queste trasmissioni nelle prossime settimane ci sia venga fatta l'informazione necessaria per evitare errori di acquisto agli utenti. Allora, un nostro ascoltatore da Novara tira leggermente le orecchie, ma però non è che è proprio svegliato. Allora dice: ma no, funziona anche su AMD. Sì, perché allora, diciamo, funziona sulla piattaforma x86, che è stata lanciata e creata da Intel. Quindi quando si dice su piattaforma Intel si intende dire quello. Però va bene, noi quando insomma ci tirano le orecchie non ci allontaniamo troppo. La viabilità Una volta si diceva su PC IBM addirittura, se non erano assolutamente bene. Bene, tra poco sentiamo Giacomo da Bergamo, tra due minuti. 2024. Giacomo da Bergamo, buonasera, benvenuto. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Niente, io ho Windows 7, se l'aggiorno in pratica con Windows 8, in pratica i programmi che io ho installato con Windows 7, come funzionano? Dovrebbero funzionare. Aggiungo una domanda di un ascoltatore che dice: sto usando la versione di prova e adesso voglio comprare l'aggiornamento. Mi funziona tutto o perdo qualcosa? Direi di no, ma Claudia Bonatti può rispondere. No, non perdete niente. Tutto quello che funziona su Windows 7 funziona anche su Windows 8, quindi tutti i software certificati li potete tranquillamente fruire anche da Windows 8 senza nessun problema. Quindi uno fa l'aggiornamento e si ritrova tutti i suoi programmi. Dunque Gianfranco, una cosa interessante è, a proposito di interfaccia, è che molti programmi o comunque alcune app, poi tu mi dirai quali, se sono programmi o sono app, non hanno più le finestre. Scherzando si può dire Windows senza le finestre. Sì, Windows senza Windows. Sì, effettivamente parliamo delle app, quindi in questa linea di demarcazione, no? Le linee guida anche grafiche per la creazione delle app che girano a tutto schermo. E girano a tutto schermo senza neanche più la classica barra dei menu, a quale siamo abituati, senza i pixel dedicati proprio alla finestra, senza la X in alto per chiudere la finestra. Ecco, mi verrebbe da dire, certo, sono app, quindi sono... è per quello. Ecco, sì, infatti ci siamo abituati con le app così, in un mondo Windows è abbastanza strano vederle senza appunto la finestra. Questo dà un vantaggio evidente, che tutto lo spazio dello schermo è dedicato al contenuto. Cioè, se faccio fotoritocco, se faccio anche semplicemente, se scrivo, se navigo web, lo faccio con le app, evidentemente lo faccio a tutto schermo. Se ho bisogno di qualche funzione dal menu, basta un tocco nella parte inferiore o superiore dello schermo e mi viene in sovraimposizione una barra con gli strumenti opportuni. Quindi questo è una novità evidente, che però non esclude la possibilità di avere anche una compartecipazione di due app sullo schermo. Si può in qualche modo dividere lo schermo, direi un quarto e tre quarti, per esempio poter vedere due app contemporaneamente, magari semplicemente per confrontare due dati. Claudia, arrivano anche nuovi servizi, ad esempio sono state aggiornate, che ne so, Skype, perché Skype, forse non tutti lo sanno, è stato acquistato da Microsoft e verrà sempre più integrato ad esempio in Office. Però a proposito di servizi nuovi, che cosa arriva con Windows 8? Allora, la cosa più interessante è la connessione alla cloud, cioè il fatto che io con Windows 8 posso connettere, mettere insieme nella cloud tutti i miei documenti, tutti i miei materiali. In quanto ai servizi, noi troviamo preinstallati sulle macchine Windows 8 o quando facciamo l'aggiornamento alcune app, come l'app che si chiama Xbox Music o Video, dove io posso trovare musica, acquistarla, fruire della musica nel modo in cui, insomma, mi piace di più, mi interessa di più. Stessa cosa per i video. Questi servizi si affiancano a servizi invece di altre, di terze parti, che io posso scaricare come app dal Windows Store. Appunto, io nel Windows Store oggi ho già migliaia di applicazioni da moltissimi editori, ho le principali testate, ho molte aziende che stanno proponendo i loro cataloghi, i loro giochi. Diciamolo, quindi... diciamolo, perché io me lo sono segnato, arriviamo al punto. Allora, devo dire che il Sole 24 Ore, certo, è una delle aziende che ha già ottimizzato l'app, le app, comunque lo sfogliabile, insomma, per gli abbonati, certo, del Sole 24 Ore, per Windows 8 e per Windows RT. Certo. Infatti il nostro comunicato stampa è stato scritto correttamente Windows 8 e Windows RT. Però sui servizi, sì, come si chiama il vostro servizio cloud? Il servizio cloud si chiama SkyDrive. Che cosa ci faccio? Io su SkyDrive posso salvare tutti i miei documenti fino a 7 gigabyte, scusate, gratuiti. Posso mettere tutto quello che voglio e quando lavoro anche su Office vedo SkyDrive come una delle cartelle, come uno dei posti dove posso salvare il mio documento, in modo da poterne accedere da qualsiasi PC, da qualsiasi tablet, ma anche dal mio smartphone, anche dal mio Windows Phone. Ho due domande, una via SMS e una via telefono, ma non facciamo in tempo a sentire il nostro ascoltatore. Se uno può fare l'aggiornamento su XP o su Windows Vista? Sì, posso fare l'aggiornamento. Se i requisiti della macchina sono sufficienti, questa è una cosa che va verificata. Se era stata acquistata negli anni del lancio di XP è un conto, se è una macchina da un grandata può essere un discorso diverso. Chiudo, e anche questo su sollecitazione di un ascoltatore, anche se io mi ero assegnato, però si è parlato molto qualche mese fa di Surface. Gianfranco, Surface è un tablet con Windows RT, giusto? Surface è l'interpretazione Microsoft, quindi marchiata e prodotta e quindi commercializzata direttamente da Microsoft, di tablet Windows RT, che non arriva per il momento in Italia, arriva in altri paesi, è già arrivata insieme a Windows 8 negli Stati Uniti, ma anche in paesi più vicini a noi, e si immagina, ci si augura per certi versi, perché il prodotto è molto bello, che arrivi anche in Italia. Arriva, Claudia? Non lo sappiamo ancora, cioè, lei verrò a raccontarvelo. Lei lo sa ma non ce lo può dire. In ogni caso è sicuramente una cosa molto interessante, che è anche un vero elemento di discontinuità, di novità, visto che non tantissimo tempo fa un altissimo manager di Microsoft mi aveva detto: dopo Zoom non faremo più device hardware. Evidentemente c'è stato un cambiamento di visione anche in Microsoft, visto che è arrivato Surface. Surface che tra l'altro era tutt'altro prodotto di Microsoft, cioè una superficie tattile, vero, certo, ma molto più ampia, un tavolo tattile, e lo stesso nome, diciamo, è stato utilizzato per questo device consumer. Si vede che il nome era bello. Cioè, era bello. Bene, io ringrazio i nostri ospiti. Naturalmente oggi abbiamo fatto una panoramica molto veloce, anche se sicuramente, visto quello che ho letto e quello che sento, penso puntuale, precisa di come va affrontato questa nuova era per Microsoft e per i tanti clienti di Microsoft. Grazie a Claudia Bonatti per essere stata con noi, a presto e buon weekend. Grazie mille, buon weekend. Claudia Bonatti è direttore della divisione Windows Italia, grazie anche a Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it e vi segnalo un articolo, tutto quello che c'è da sapere su Windows 8 è scritto su dday.it. Gianfranco, grazie. Ovviamente. Grazie a tutti. Ringrazio anche Valeria Bernardi che si è occupata della parte tecnica, Anita Panizza che ci ha aiutato in redazione e anche Nadia Zammitti. Noi torniamo la prossima settimana, anche se c'è il ponte, noi saremo qui in diretta. Io sono Enrico Pagliarini, appuntamento tra 7 giorni. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.